in primo piano. Taglio del 10% ai maxi stipendi. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore nel mirino politici, appunto, e manager pubblici. Anche La Stampa, scure sui manager pubblici, e Il Messaggero, politici e manager, tagli agli stipendi. C'è chi sceglie invece la vicenda sulle intercettazioni, il disegno di legge in discussione al Senato, discussione notturna. Intercettazioni stretta su giornali e TV per il Corriere, mentre l'Unità fa tutta una pagina con metà prima pagina nera, al buio. Intercettazioni, primo sì, contro il diritto di cronaca. Per il Fatto addirittura compaiono le manette. Ogni tanto, non è la prima volta che vedo le manette nella prima pagina del Fatto Quotidiano. È un paio di manette: arrestateci tutti, disobbedienza civile alla legge Bavaglio. Repubblica sceglie Bangkok, il massacro di Bangkok, la morte anche di un fotografo, un fotoreporter italiano. Insomma, queste alcune aperture, poi ne vedremo interessanti. Una sul Giornale, che fa uno scoop sicuramente, pubblica una foto, ma la vedremo più avanti, non vi voglio anticipare molto. Evasione e statali, Tremonti stringe. Ieri Tremonti ha parlato con Berlusconi, è andato anche a cena con Berlusconi, c'era anche il direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli. Insomma, fervono i preparativi per la manovra. Dino Pesole ne parla a pagina 7, mentre a pagina 6 Davide Colombo e Marco Mobili, ecco le indiscrezioni. Si continua con le indiscrezioni, qualcosa ogni giorno, c'è un tassello in più che fa capire che cosa potrebbe succedere. Concordato per le case fantasma, questa è una storia che da alcuni giorni in Sole 24 Ore sta raccontando, vale a dire che è stata fatta tutto un censimento, si sono scoperte che ci sono milioni, adesso la cifra precisa non lo so, era data sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, ma oltre un milione sicuramente di immobili che non sono, che facendo una mappatura dall'alto, insomma, sono comparsi così e non erano sconosciuti a tutti. Che fare di questi immobili fantasma? Ebbene, si profila una regolarizzazione ovviamente in che modo? O immediata, entro un bimestre, tramite il pagamento delle imposte dovute relativamente alle ultime due annualità, oppure la seconda strada sarebbe dare al contribuente 6 mesi di tempo per decidere se arrivare a patti col fisco, pagando il dovuto senza sanzioni. Poi c'è la versione più dura, l'ultima opzione, dopo i 6 mesi fare scattare anche le sanzioni. L'Agenzia del Territorio continua comunque questa mappatura degli immobili fantasma. E si stimano entrate, se c'è una sanatoria per questi immobili fantasma, tra 1 e 1,5 miliardi di euro. Sapete che la manovra potrebbe arrivare fino a 28 miliardi di euro, sopra i 25 miliardi di euro comunque la manovra correttiva. E poi lo stipendio dei manager, 10% in meno ormai giorno dopo giorno. I dettagli sono da definire, scrive Gianni Trovati, ma l'idea di tagliare stipendi degli alti dirigenti pubblici con una sorta di prelievo forzoso in busta paga sta prendendo sempre più piede. Bisogna capire dove saranno i limiti, c'è chi dice sopra i 100.000 euro, ci sono anche dei primi calcoli. La riduzione scatterà sulle quote di busta paga oltre i 100.000 euro l'anno. Questo dovrebbe essere l'indiscrezione. Quindi sopra i 100.000 euro l'anno per i dipendenti pubblici potrebbe arrivare un prelievo forzoso fino al 10%. E poi i parlamentari potrebbero arrivare, i tagli dei parlamentari, fino al 15%, parlamentari e membri del governo, dunque ministri, fino al 15%, non più il 5% di Calderoli, ma fino al 15%. E inoltre potrebbe essere alzata l'età pensionabile di tutti i dipendenti di Camera e Senato di 2 anni, da 65 a 67 anni. L'età della pensione per dipendenti di Camera e Senato. Manager pubblici, stipendi giù del 10%, questo è anche per il Corriere della Sera, pagina 8, la manovra, i conti pubblici, si va verso questa cosa. Poi sapete, le pensioni, le finestre, la stretta sugli falsi invalidi, il super ticket da 10 euro che ieri anticipava il Sole 24 Ore potrebbe spuntare nuovamente. Tagli a pensioni, scatti e indennità, ma in Parlamento c'è già chi fa muro. su Repubblica, Carmelo Lo Papa, come c'è già chi fa muro. Il nostro sondaggio, ce la faranno i politici? Tremonti ha detto è solo l'aperitivo, il taglio del 5%. Non so se intendeva così dire che si arriverà almeno al 15%, o se intendeva dire l'aperitivo per tagli ben più ampi, che non sono solo quel simbolico 5% ai politici. Sta di fatto che in Parlamento, dice Carmelo Lo Papa, c'è già chi fa muro perché si vogliono toccare anche le pensioni, c'è chi dice bisogna tirare la cinghia, sacrifici per tutti anche per noi. Noi vi chiediamo, ce la faranno secondo voi i parlamentari a mantenere questa promessa di taglio degli stipendi, per quel che riguarda loro ovviamente, per quel che riguarda la casta, diciamola questa parola. Dovete votare su radio24.it. Intanto, per quel che riguarda la lotta all'evasione e ai paradisi fiscali, il Sole 24 Ore ci dice che è arrivata questa lista Falciani, ricordatevelo, questo dipendente ex della banca HSBC in Svizzera che ha trafugato, lui dice non ho trafugato, dice... c'era una falla nel sistema, non si sa come, insomma, si è ritrovato un dischetto con 180.000 nomi di conti correnti di persone di tutto il mondo. Ebbene, ci sono anche 7.000 italiani che la Procura di Torino ha richiesto con una rogatoria internazionale. Ieri è arrivato il dischetto con i 7.000 nomi e Marco Bellinazzo e Marco Mobili ci fanno sapere che accanto a depositi con poche migliaia di euro ci sono veri e propri tesoretti con decine di milioni tra i conti correnti della HSBC, di cui la Guardia di Finanza è entrata in possesso per quel che riguarda il file. Ora verranno dati al procuratore Caselli, vale a dire la Procura di Torino che l'ha chiesto. Sta di fatto che questo, chissà se vedremo questa lista, anche questa lista sui giornali presto. Intanto, per quel che riguarda la pagina economica, è sempre stata una giornata molto dura per quel che riguarda le borse. Perché? Perché tutto è stato definito dalla decisione, una decisione unilaterale criticata dall'Europa, presa dalla Germania martedì sera, di vietare vari tipi di vendite allo scoperto sui mercati finanziari. Un tentativo di frenare la speculazione che ha però gettato scompiglio nelle borse. Milano ha perso il 3,5% circa, la Merkel antispeculazione fa cadere le borse mondiali, addirittura il Corriere della Sera punta sulla Merkel, dice è stata questa decisione a far cadere le borse mondiali, anche in prima pagina sul Sole 24 Ore, tra l'altro di questo parlerà Deborah Rosciani. Alle 8:15 in Soldi e dintorni parleremo, insomma, di questa decisione unilaterale della Germania e di quello che ne è comportato. Per quel che riguarda l'evasione fiscale, oggi uno prende la prima pagina del Sole 24 Ore e trova un fondo di Carlo De Benedetti, vale a dire il fondatore di Repubblica, l'editore, insomma, fondatore dal punto di vista dell'editore, l'editore industriale, imprenditore Carlo De Benedetti. Parla di tasse, meno evasione uguale più crescita. Carlo De Benedetti scrive così: va attuata senza indugi una massiccia riduzione delle imposte che gravano su lavoro e imprese. L'Italia ha il record europeo delle aliquote, soprattutto di quel cuneo fiscale che significa buste paga pesanti per le imprese, leggere per i lavoratori. Serve una riduzione di questi oneri fiscali nell'ordine di diversi punti percentuali. Una misura draconiana che andrebbe evidentemente bilanciata dal lato delle entrate e delle minori uscite. Siccome il debito è quello che è, su questo fronte vanno anche recuperate risorse aggiuntive utili al risanamento. E dunque il taglio delle imposte chiede forte, taglio delle aliquote molto forte per rilanciare la ripresa, Carlo De Benedetti. E poi dice Tremonti parla dal 94 di spostamento del fisco dalle persone alle cose, è un po' quello che intendo io. Per esempio il taglio delle imposte potrebbe finanziarsi con uno spostamento della tassazione verso la manifestazione più diretta della ricchezza e del reddito, i beni patrimoniali e i consumi. Se si lavora senza indugi in questa direzione avrà, Tremonti, per quel che vale, il mio appoggio. È al governo, il governo del fare, allora faccia, dice Carlo De Benedetti. Un'altra proposta è questa: obbligo contro l'evasione fiscale, dice De Benedetti. È molto semplice: l'obbligo di allegare alla propria dichiarazione dei redditi l'estratto conto bancario. In questo modo non scapperebbe più niente, perché saremmo tutti chiamati a dar conto di ogni movimento. Un Carlo De Benedetti, dunque, che scrive questa idea per il Sole 24 Ore, fa un libro, intervista a Paolo Guzzanti, in cui spara zero anche contro D'Alema, no? Ricordate, contro D'Alema, dicendo non ha mai fatto nulla nella sua vita, non ha mai lavorato, ha fatto solo il politico. Berlusconi, D'Alema gli ha risposto: è un berluschino, è un imprenditore di sinistra, un berluschino. De Benedetti il giorno dopo ha detto è un caso umano. Poi ha detto di Bersani un buon ministro, ha detto De Benedetti, ma non è un leader del PD. Ma che succede? E infatti su pagina 15 del Corriere un'intervista di Aldo Cazzullo a Giampaolo Pansa, giornalista, scrittore. Pansa, De Benedetti vuole fare politica. Pansa e la Querel, De Benedetti vuole fare politica, questa è l'analisi di Giampaolo Pansa. Carlo De Benedetti è sceso in campo, si prepara a far politica in prima persona come fece nel 94 Silvio Berlusconi. Oggi come allora l'Italia è nel caos, la tempesta giudiziaria in furia, i partiti si frantumano, De Benedetti vede il vuoto ed è tentato dal riempirlo. Questa è l'analisi dell'intervista molto interessante e approfondita che vi invito a leggere di Aldo Cazzullo a Giampaolo Pansa. Insomma, dice De Benedetti secondo me è annoiato anche da Repubblica, quando la apre al mattino non la trova più sorprendente come un tempo, tesa com'è sempre nella caccia a Berlusconi, così ha voluto prendere la parola di persona, vuol fare politica. A proposito di politica, il tema del giorno sicuramente quello del federalismo demaniale, ieri approvato, lo Stato cede terreni, spiagge e laghi, pagina 5 del Corriere della Sera, ci saranno tempi un po' più lunghi, ma sono, si analizza quello che sono il trasferimento di 9.127 immobili, 9.832 terreni, una settantina di piccoli aeroporti, un valore di 3,2 miliardi di euro di inventario dallo Stato agli enti locali, però la Padania non ce l'ha fatta ad ottenere il Dio Po, il Po no, il lago di Garda sì, ma il Dio Po no. Un canaletto invece sì, un giorno del ritorno delle acque delle regioni, i senatori del Carroccio hanno regalato infatti la copia di un canaletto, un quadro da lui spesso elogiato, una versione della riva degli Schiavoni verso San Marco, del canaletto. A proposito di casa e potere, visto che continua l'inchiesta sulla cricca cosiddetta, voglio andare alla prima pagina del giornale, perché come detto c'è una foto, è uno scoop del giornale, champagne, ecco il brindisi tra la cricca e la sinistra. È una foto che immortala Angelo Balducci, Fabio De Santis, vale a dire due inquisiti da parte del G8, con il sindaco di Bari Michele Emiliano, tutti e tre hanno uno spumante, uno champagne in mano e stanno per stappare, sindaco Emiliano del PD, esponente forte del PD, perché è la vicenda, si racconta, del Petruzzelli. Appalti, quel brindisi tra la sinistra e la cricca è la storia che Massimo Malpica, pagina 3 del giornale, racconta dell'appalto per la rinascita del Petruzzelli, a chi fu affidata una gara, a un gruppo di società legate a Balducci, De Santis, vale a dire quelli inquisiti insomma nella vicenda del G8, e allora il giornale dice ma come, questa vicenda del Petruzzelli per ora nessuno ha voluto farne luce. Ma l'affare Petruzzelli è nato così. Emiliano ha chiesto sostanzialmente il sindaco di Bari all'allora governo Prodi una procedura straordinaria, procedura che fu comunicata a Bertolaso il 22 dicembre 2006. Ecco l'ordinanza firmata da Romano Prodi che dice i lavori sono indifferibili, urgenti, bisogna far ricorso alle procedure acceleratorie. In Italia è tutto così, tutto emergenza, tutte procedure acceleratorie. Il dubbio è per bypassare quelle che sono la burocrazia e poi dopo si rischiano di fare affari un po' velocemente e un po' dopo da controllare, diciamo, dalle varie procure. E allora è stata fatta questa procedura anche per il Petruzzelli, ma scrive il giornale, ecco, quando si tratta della cricca e la sinistra per il momento c'è il silenzio, ma ora sta indagando la magistratura. Tanto sul tema casa e potere, quello che da giorni è in prima pagina sui giornali, beh, tutti i giornali oggi ci informano che a Villa Certosa, quella villa sontuosa, straordinaria, la residenza del premier, che fu anche l'oggetto delle famose foto, no? Ricordate, del fotografo Zappado, tutta la vicenda, le feste, no? quella che Berlusconi ha detto non mi sento più sicuro, la vendo? No, non la vende. Non solo, lavori a Villa Certosa, grazie al piano casa Silvio si fa i bungalow. La leggo da Libero, che è il giornale che vi dà più spazio, ma c'è un po' ovunque, il Corriere, Pubblica. Cioè a Villa Certosa, grazie al piano casa, quello che il governo Berlusconi ha votato e che le regioni possono recepire o no, e che la Sardegna ha recepito subito con la giunta Cappellacci, Berlusconi, o meglio l'immobiliare, diciamo la società che possiede Villa Certosa, vale a dire la Idra, che fa capo a Silvio Berlusconi, ha intenzione di erigere alcuni bungalow stile Tukul, villaggio turistico o villaggio africano, e ha fatto richiesta usufruendo della legge sul piano casa. Berlusconi vuole allargare Villa Certosa. Tutta la vicenda delle intercettazioni, come detto ci sono giornali che ci puntano, il Corriere della Sera, l'apertura, intercettazioni stretta su giornale TV, il Senato sta lavorando, scrive Luigi Ferrarella tra l'altro nell'editoriale in prima pagina, impegnati a smentire l'impietosa statistica che al Senato dall'inizio dell'anno si segnalano 9 ore di lavoro alla settimana in aula. Da giorni i senatori, con un ritmo veramente incredibile, stanno lavorando in commissione di notte, sedute notturne. C'è addirittura una foto che circola che immortalerebbe 2 senatori della Lega presi a dormire, ma alle 2 di notte, d'altronde è abbastanza normale, però in quel caso si sta votando in commissione per far presto la legge sulle intercettazioni. Bavagli e amnesie, Luigi Ferrarella fa un duro editoriale in prima pagina del Corriere dicendo è sbagliato, e anche il Corriere dice intercettazioni stangata per chi pubblica. Allora è stata approvata la norma che porta le multe fino a 464.000 euro per gli editori dei giornali che pubblicheranno stralci di intercettazioni. Approvata anche quella che è considerata la norma d'addario, viene definita così, cioè se si registrano qualsiasi cosa a insaputa della persona che viene registrata ci sono delle condanne. Mentre invece c'è un giallo sulle sanzioni ai giornalisti che pubblicano, in un primo caso si pensava fossero passate, invece no, c'è stata una sospensione e verranno approvate o discusse lunedì dopo 5 giorni di sospensione dei lavori. C'è anche il presidente della commissione Berselli che ha detto potrei convocare per il 3° giorno la seduta notturna. Ma poveri senatori, non ce la fa, facciamoli dormire, non magari in commissione, facciamoli dormire come tutti gli italiani, insomma questi senatori di notte, perché lavorare di notte, questo no. Come detto ci sono reazioni molto dure, Ezio Mauro che è il direttore di Repubblica ha lanciato una sottoscrizione dicendo reagite tutti cari italiani, fa un'intervista in questo caso al Fatto, intervistato da Silvia Truzzi, dice togliamoci la museruola a tutti i giornalisti italiani, difendiamo la possibilità di fare liberamente il nostro mestiere, è una legge di regime. Anche per l'Unità, intercettazioni, censura e carcere per il PD, nemmeno sotto la Spagna di Franco. Vabbè, c'è tutto questo tema sulla legge sulle intercettazioni che ci porteremo avanti anche nei prossimi giorni. Come c'è la polemica che infuria sui giornali oggi, il giorno dopo, sulla vicenda Santoro, no? Il fatto che Santoro ha firmato non sarà più dipendente della Rai ma collaboratore esterno, non farà più Anno Zero ma farà delle docufiction, Mister 17 milioni, adesso c'è la gara ai conti, no? La liberazione della Rai per Libero. Quanto prende Santoro? Pare sui 2 milioni e mezzo di liquidazione, più poi produrrà delle docufiction 1 milione di euro l'una dall'anno prossimo. Secondo Libero la prima sarà su Cristo, la seconda su Hitler. Solo che c'è tutto e si arriverà fino a 14 milioni in 2 anni, più la buona uscita, 17 milioni, questo costerà secondo Libero ai contribuenti, che poi insomma se uno fa una docufiction da 1 milione ma questo rende alla Rai 1,5 milioni è un guadagno, ma vabbè, comunque quello c'è sicuramente, la buona uscita da 2,5 milioni che fa molto discutere anche sul web, ci sono anche sul Fatto per esempio, un giornale vicino molto santo, attesa e sconcerto, ci sono molti che dicono così ci deludi, così sui blog di sinistra, molto molto vicini a Santoro, polemica sulla buona uscita e molti dicono adesso ci ha tradito. Ma come? Con una buona uscita di 2 milioni e mezzo, qualcuno dice fino a 3 milioni di euro, non fa più anno zero? E allora anche lui cos'è? Vuole solo soldi? Il suo popolo in rete non lo perdona anche per il giornale? Sta di fatto che questa è la vicenda Santoro. Stasera chissà cosa dirà. Oh, c'è molto anche, io non ho tempo, devo andare alla segnalazione conclusiva, ma trovate molto anche sulla vicenda del G8, cioè il fatto che in appello sono stati condannati i vertici della polizia per la famosa irruzione alla scuola Diaz ai tempi del G8 di Genova, ma poliziotti condannati restano comunque al loro posto, lo dice il sottosegretario agli interni Mantovano a pagina 20 della Stampa in un'intervista, restano al loro posto almeno fino alla sentenza definitiva. Poi, se verrà, in un discorso ipotetico, confermata la condanna, il domani è nelle mani di qualche altro. Per ora, dice Mantovano, la stima è molto solida. Infine, in 10 secondi, sapete qual è la città delle donne, secondo la Stampa? Forlì. È Forlì, care donne. Questo perché? Perché la Commissione delle Pari Opportunità, l'Osservatorio Donne della Pubblica Amministrazione, ha esaminato qual è la città con maggiori incarichi anche amministrativi dati alle donne, dalla politica all'imprenditoria, eccetera. Il paradiso delle pari opportunità è Forlì. Viva Forlì!